folle ben che si crede che per dolci lusinghe amorose o per fiere minacce sdegnose dal bell'idolo mio ritragga il piede. Cangi pur suo pensiero che il mio cor prigioniero spera che goda la libertà. Dica, dica chi vuole, dica chissà. Altri per gelosia spiri pure in pie fiamme dal seno, versi pure megera il veneno, perché rompi al mio ben la fede mia. Morte il viver mi tolga, mai fia ver che si sciolga quel caro laccio che preso m'ha. Dica, dica chi vuole, dica chissà. Ben avrò tempo e loco di sfogar l'amorose mie pene, di temprar dell'amato mio bene e dell'arso mio cor l'occulto fuoco. E tra l'ombre e gli orrori dei notturni splendori il mio ben furto s'asconderà. Dica, dica chi vuole, dica chissà. E tra l'ombre e gli orrori dei notturni splendori il mio ben furto s'asconderà. Dica, dica chi vuole, dica chissà.